nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 ottobre, il sole in regione sorto alle 6.40 e tramonterà alle 17.07, potenza dell'ora solare. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Il mondo delle api da anni è in sofferenza e tra le cause dei suoi problemi c'è anche l'utilizzo degli insetticidi in agricoltura. Uno studio dell'Università di Udine evidenzia come i problemi correlati siano amplificati dalla presenza di un virus che peggiora la situazione. A seguire le storie del professor Angelo Floramo, che rimanda alle atmosfere di un'Arcadia reale che si consumava nei territori di campagna nei giorni delle processioni dei morti. Per la rubrica delle normative avremo la storia senza fine delle disposizioni sull'etichettatura delle confezioni alimentari. In quella della frutticoltura, tutto quello che si deve sapere sulla potatura a verde e nello spazio che dedichiamo ai consigli dei sommelier, i calici, più adatti a degustare il vino. La coreografica euchera è al centro della rubrica dei fiori, prima dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. C'è un recentissimo studio dell'Università di Udine che cerca di far luce sull'interazione degli insetticidi in campo e in laboratorio e la vita delle api. Api che sappiamo da anni sono sempre più a rischio. Lo ha coordinato il professore Francesco Nazzi, entomologo dell'Università di Udine e direttore del laboratorio apistico regionale. In sintesi. In sintesi, siamo partiti da dei dati che ci avevano stupiti e riguardavano l'attività di certi insetticidi in pieno campo. Insetticidi di cui già si sapeva che erano nocivi alle api in quantità molto modeste, ma che pure in campo avevano dato risultati discordanti, in taluni casi molto negativi sulle colonie d'api, in altri casi indifferenti. E questo, come potete immaginare, è un problema sia per il ricercatore che cerca di scoprire le cause dei fenomeni che osserva, sia per i decisori che devono assumere dei provvedimenti che riguardano l'autorizzazione oppure no delle sostanze. Ed è spuntata la presenza di un virus. Sì, un virus che complica le regole del gioco, nella misura in cui, in assenza di quel virus, è facile prevedere che cosa succederà alle api se esposte a quantità ragionevoli di questi insetticidi. Nel senso che se sono quantità minuscole potrebbero perfino cavarsi, se sono quantità pericolose muoiono con tutte le conseguenze del caso. Quando c'è il virus di mezzo accade che anche quantità apparentemente non letali possono dar luogo a dei risultati inaspettati con morte di insetti e collasso degli alveari, perché il virus è un virus che è capace di sabotare le difese delle api e dunque renderle ancora più vulnerabili di quanto non siano normalmente ai molti fattori di stress che le colpiscono. Di che virus stiamo parlando e quindi dobbiamo concentrarci contro di lui? Stiamo parlando di un virus chiamato virus delle ali deformi, che si chiama così perché per l'appunto deforma le ali alle api quando l'infezione è molto seria. In tutti i casi accorcia la vita di questi insetti. È un virus purtroppo molto diffuso che all'inizio d'anno riguarda poche api, ma che purtroppo durante l'estate riguarda la totalità delle api dell'alveare. Naturalmente, per fortuna, le api hanno una difesa immunitaria che permette loro di far fronte a questo virus, ma se aggiungiamo al virus qualche altro fattore di stress, ad esempio un insetticida, ma anche, se volete, un ridotto apporto di nettare o polline, allora possono darsi dei guai seri, così che le api infette possono finire in condizioni gravi. Può giovare a migliorare l'ambiente dove vivono le api, magari preservando certe zone dove loro vivono meglio? Cioè, non dico di isolarle sotto una campana di vetro. Preservare l'ambiente è forse la cosa più importante che dovremmo fare, perché prima di tutto le api hanno bisogno di qualcosa da mangiare. Quindi nettare con cui sfamarsi e nutrire la covata e polline per nutrire la covata, se stesse e per mantenere in efficienza il loro sistema di difesa immunitario. Pertanto il primo requisito per fare della buona apicoltura, ma anche per mantenere in vita le tantissime api selvatiche, è mantenere una campagna ricca di spazi incolti, che possono essere molto semplicemente le strade interpoderali, le siepi, i boschetti, i prati stabili, quei ritagli di prati stabili che ci sono in pianura. Guai a manometterli, perché da quelli dipende innanzitutto la sopravvivenza di api domestiche e selvatiche, ma soprattutto i servizi che quelle api possono apportare all'agricoltura. Quindi gli incolti sono paradossalmente molto produttivi per l'agricoltura. Le processioni dei morti tra rito e mito nei territori del Friuli che offrivano mimesi culturali, come ci racconta nelle sue storie Angelo Floramo. C'è sempre uno strano senso di sospensione che avvolge questo periodo dell'anno, quello che coincide con la festa dei morti e quella dei santi. Saranno le prime brume che salgono dai fossi anche quando le mattinate sono luminose e accendono i colori dell'autunno, dando fuoco ad una tavolozza di impareggiabile cromia. O sarà forse quella strana malinconia che prende il cuore quando le foglie cominciano a cadere, monito che tutto finisce, prima o poi, ma non per sempre. Il calendario agricolo segna da millenni questo strano passaggio del sole, che si ammala, spegnendosi ogni giorno un po' di più, come una di quelle magiche cerniere che si aprono sul mistero, mettendo in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti, che secondo tradizione hanno da sempre a che fare con la terra e le sue tenebrose profondità. Ne fecondano gli umori, vi riposano tra le radici come i semi, in attesa di una qualche fioritura un giorno, chissà dove, chissà quando, ma è certo che torneranno. Qui da noi i morti non si seppelliscono ma si seminano, amava ripetere David Maria Turoldo, il profeta contadino che come pochi seppe cantare l'epopea degli ultimi. Ecco il punto, l'attesa. La civiltà contadina la conosceva bene, ne apprezzava i significati profondi. Noi invece, donne e uomini del terzo millennio, presi dalla fretta del vivere, ce ne siamo completamente dimenticati. Viviamo in memoria della morte. La esorcizziamo perché non vogliamo ammettere l'idea della nostra finitezza. Saper aspettare significa vegliare insieme nella lunga notte che precede il tempo della festa, quando tornerà la luce assieme alla gioia. Questo è il significato della parola vigilia. Dalle pievi cimiteriali, che ancora oggi segnano nella campagna friulana i misteriosi confini tra il coltivato e l'incolto, tra l'umano e il prodigioso, la tradizione vuole che prendano avvio le processioni dei morti. Seguono silenziose e spettrali il tracciato dei solchi che l'aratro ha aperto nei giorni appena passati, dissodando il ventre fecondo della madre, l'antica dea che si appresta al lungo sonno invernale. Gli spiriti degli antenati ritornano in questi giorni, seguendo i sentieri degli agars, i solchi rifecondati dalle stoppie morte che abbracciano gli scoperti nelle pertinenze delle case. È per loro che si lascerà qualcosa sul tavolo della cucina, come antica offerta votiva. Nell'attesa, i vivi li avranno ricordati abbrustolendo castagne e sorseggiando bicchieri di torbida e dolcissima ribolla. È passato quasi un anno dall'ultima volta che abbiamo parlato di etichettatura ambientale degli imballaggi. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo a che punto siamo. Visto che è trascorso un po' di tempo, ricordo che nel settembre 2020 è stata introdotta una modifica al testo unico ambientale che prevede che tutti gli imballaggi riportino informazioni utili al consumatore per una corretta raccolta differenziata. È un obbligo trasversale che riguarda qualsiasi bene di consumo posto in commercio e quindi anche alimenti e bevande ne sono soggetti. Purtroppo sin dall'inizio la norma è apparsa di difficile applicazione, tanto che sono intervenute alcune modifiche e l'entrata in vigore è stata prorogata per 2 volte. Ora, se non ci saranno ulteriori differimenti, il tutto sarà pienamente operativo dal 1 gennaio 2023. Quindi nel frattempo tutti i dubbi sono stati chiariti? Non esattamente. L'ultima modifica del testo di legge prevedeva che il Ministero per la Transizione Ecologica emanasse delle linee guida ufficiali per la corretta applicazione dell'etichettatura ambientale. E in effetti le linee guida sono state predisposte già lo scorso marzo, ma non sono state ancora ufficialmente adottate. Non è un caso che, pur essendo reperibili in rete, non sono ancora pubblicate sul sito istituzionale del Ministero. Abbiamo anche notizia che la Commissione europea, cui era stato inviato in visione il testo, ha presentato alcune osservazioni. Insomma, a ridosso della scadenza siamo punto a capo con la medesima situazione di incertezza dello scorso anno. E le imprese come devono regolarsi? Sappiamo anzitutto che le confezioni realizzate prima del 31 dicembre potranno essere commercializzate fino a esaurimento scorte, anche se prive delle indicazioni ambientali. E questo vale anche per le confezioni realizzate dal 1 gennaio, a condizione che si possa dimostrare, bolle e fatture alla mano, che gli imballaggi utilizzati erano in magazzino prima della fine dell'anno. Il problema si pone ancora una volta per chi non ha scorte né di prodotto né di imballaggi e deve programmarsi per il 2023. La potatura, operazione delicata e strategica per ogni pianta, è un'arte in evoluzione, soprattutto per quelle da frutto, come ci dice oggi il professor Raffaele Testolini. Molti sono convinti che le piante da frutto si potano d'inverno, quando sono cadute le foglie. Questo dice la tradizione, ma la scienza ha fatto passi avanti e ora dice qualcosa di diverso. Gran parte delle specie da frutto si potano effettivamente d'inverno, quando le piante sono in riposo. Ma non vale per le drupacee, quella grande famiglia che comprende pesco, mandorlo, albicocco, susino e ciliegio. Queste piante vanno potate ai primi di ottobre, quando parte delle foglie sono cadute, ma non tutte. Il perché è presto detto. Potando prima del riposo vegetativo si favorisce meglio la cicatrizzazione dei tagli e quindi abbiamo meno probabilità che si insedino delle malattie. Parliamo soprattutto di funghi e batteri che entrano dalle superfici di taglio e ai quali le drupacee sono particolarmente sensibili. Se poi, appena completata la potatura, facciamo un trattamento fungicido con un prodotto, per esempio a base di rame, abbiamo chiuso la stagione veramente bene. Detto questo, per quanto riguarda la potatura di fine stagione, non posso non ricordare che per tutte le specie da frutto c'è un'altra potatura importante, la cosiddetta potatura verde, che si fa a giugno-luglio, quando i germogli sono in rapido accrescimento. Si eliminano tutti i succhioni, cioè i germogli vigorosi che non servono per la produzione dell'anno successivo, dando luce all'interno della pianta e favorendo così la maturazione delle gemme destinate a produrre fiori e frutti l'anno seguente. Questa potatura verde è tanto importante quanto quella autunnale o invernale che sia. Se un anno provate a farla, vedrete che la potatura a fine stagione sarà molto più facile e semplice. E la luna? Si pota con luna calante o luna crescente? Domanda insidiosa alla quale chiedo di essere esonerato dal rispondere. Certamente frutticoltori e viticoltori professionisti, con tanti ettari da potare d'inverno, se guardassero la luna non finirebbero il lavoro in tempo. Chi ha poche piante può anche seguire le raccomandazioni dei saggi del luogo, che non sempre sono concordanti. Per la rubrica dei sommelier con Vladimiro Tulisso, delegato regionale dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, dopo aver parlato di bottiglia, di cantina e di carta dei vini, è ora di iniziare a bere. Innanzitutto, dove si beve? Nel calice o nel bicchiere? Ci sono differenze? Oggi vorrei parlarvi di come bere il vino, perché ora che abbiamo la cantina e potremmo conservarlo, dobbiamo ricordarci che il vino va bevuto, non è un bene da collezionare. C'è sempre un'occasione per stappare una bottiglia. Lasciarla in cantina in attesa dell'evento importante non ha nessun senso, perché è la degustazione, possibilmente condivisa, il vero momento importante. Ma non bisogna sbagliare bicchiere, perché se il contenitore non è adatto, il vino non riesce a raccontarsi. E se avete dubbi su quello che vi sto dicendo, provate a degustare il contenuto della stessa bottiglia in bicchieri diversi, o magari anche nel bicchiere che usate per bere l'acqua. ogni bicchiere, ve ne renderete conto, sembrerà contenere un vino diverso. All'AIS lo facciamo per allenare gli allievi dei nostri corsi e la prova li lascia sempre stupefatti. La forma del calice, infatti, è importante perché il bicchiere è un contenitore ma anche un espositore. Il vino si deve vedere, deve anche riuscire a respirare. Quindi niente colori, niente ghirigori, rigorosamente in sottile vetro di cristallo. E deve essere un calice, cioè un bicchiere con uno stelo abbastanza alto, perché è dallo stelo che il bicchiere andrà afferrato per allontanare il contenuto dal calore della mano o da un eventuale profumo. Dunque la forma è importante. Ma come scegliere? Ci sono appassionati che dispongono di calici diversi per adattarli alle varie tipologie di vino, ma è un vezzo più che una vera esigenza. I sommelier degustatori, ad esempio, utilizzano un bicchiere dalla forma standard che assomiglia a un uovo allungato con la pancia che termina con un'apertura più stretta rispetto al corpo, utile a concentrare i profumi. Quando si versa il vino, poi, bisognerà fare attenzione anche alla quantità. Il bicchiere va riempito al massimo per un terzo, diciamo fino alla parte della pancia con la circonferenza più ampia. In questo modo si avrà un rapporto ideale tra il liquido e la superficie a contatto con l'aria e la degustazione sarà veramente appagante. Infine il lavaggio, mai in lavastoviglie, a mano, poco sapone senza tensioattivi e acqua non sopra i 60 gradi per non rendere i bicchieri troppo fragili. Bene, abbiamo la bottiglia e i bicchieri. Ci stiamo avvicinando alla stappatura. Euchera, bellissime foglie, molto decorative, è il titolo del contributo di oggi di Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori. L'euchera appartiene alla famiglia delle saxifragacee. Belle d'inverno, rustiche e coloratissime, sono erbacee perenni a foglia persistente. Riescono a decorare anche le zone del giardino più tristi e spoglie, dove spesso altre piante non riescono a dare alcun effetto scenografico. Ne esistono svariate specie, originarie dell'Europa e del Nord America, e moltissime varietà ibride e cultivar sono state prodotte nel corso dei decenni. Non superano i 30-40 cm di altezza. Le foglie sono grandi e palmate, con margine frastagliato. Il colore è vario, a seconda della specie e della varietà, e va dal giallo limone fino al viola porpora scuro. Le venature delle foglie sono molto evidenti e possono essere anche di colore contrastante, rendendole così ancora più decorative. In particolare, nei mesi freddi, le foglie assumono i colori più vivi. Verso la tarda primavera e in estate, la pianta produce lunghi steli, su cui sbocciano piccoli fiorellini di colore bianco, rosso o rosa, a seconda della varietà. Insieme alla fioritura, l'euchera produce anche molti stoloni, che diventeranno nuove piante. Grazie al portamento ordinato del cespo e al fogliame splendido tutto l'anno, sono particolarmente indicate per aiuole o vasi. L'euchera tollera bene il freddo, e alcune varietà sopportano anche temperature inferiori allo zero. Se viviamo in una zona con clima rigido, possiamo coltivarla in una posizione soleggiata o semi-ombreggiata. Non amano la calura intensa, e in una zona con estati molto calde, capita che in giugno o in luglio le piante entrino in riposo vegetativo, riprendendo però a vegetare con le temperature più miti di settembre. In questo caso è meglio coltivarla in una zona ombreggiata o semi-ombreggiata. Sono piante a bassa manutenzione, si pongono a dimora in un buon terriccio fresco, fertile e molto ben drenato. Annaffiamole quando il terreno è asciutto, ma evitiamo di lasciare l'acqua nel sottovaso, se coltivate in vaso. Da marzo a settembre forniamo un concime per piante verdi, ogni 12-15 giorni. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 34,60 e 34,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 36,10 e 36,60, l'orzo, peso specifico 62,65 tra 31,40 e 31,90 e la soia tra 60,10 e 60,60. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8 euro al quintale e la soia viene pagata pagata 10 centesimi in meno. Discrete contrattazioni ortofrutticolo di Udine con prezzi pressoché stazionari. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro al chilo IVA esclusa. I finocchi tra 0,90 e 1,20. Il radicchio rosso tondo tra 1,60 e 1,90. Quello di Treviso precoce tra 1,90 e 2,20. Le mele golden da 0,85 a 1,30, le pere Williams da 2,30, l'uva da 1,50 a 2 euro, le clementine in foglia tra 2,20 e 2,60. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è proficua, i prezzi sono in calo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Melano Lagunare, i branzini suddivisi in piccole, medie e grandi sono quotati da 13 a 21 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 3 a 18, le sogliole da 4 a 20. Le passere da 11 a 14, i rombi da 27 a 32, i palombi da 5 a 13, le anguille da 20 a 22, gli sgombri da 8 a 11, le capesante da 13 a 16, le seppie da 6 a 11 e i calamari da 13 a 17. È proseguito ancora l'aumento nel settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine giovedì scorso ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 8,50 e 8,90 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,60 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 9,90 e 10,30, con marchio di qualità tra 10,90 e 11,30. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotato Franco Stalla tra 57 e 59 centesimi il litro più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA, Sergio Nordio, diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Il mese di ottobre 2022 passerà alla storia come tra i più caldi in assoluto, con valori medi per la pianura di ben 3 gradi in più rispetto al normale e temperature massime, sempre riferendoci alla pianura, anche di 4 gradi in più. Anche in quota si sono registrate temperature molto elevate, specie in questi ultimi giorni, con valori anche di 10-11 gradi superiori al normale, più consone alla media dei primi giorni di agosto piuttosto che a fine ottobre. All'inizio della settimana scorsa, fra lunedì e martedì, ci sono state anche piogge, specie sulla zona montana, con cumulati anche di 200 mm sulle prealpi Giulie. La grande stabilità atmosferica, con la presenza dell'anticiclone di origine africana e di una massa d'aria molto calda, continuerà ancora sulla regione fino a martedì. Poi, da mercoledì, probabilmente, si avvicinerà un debole fronte atlantico. Fino al mattino di martedì 1 novembre, giorno di Tutti i Santi, avremo tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno. Saranno possibili solo delle lievi velature in quota e le temperature rimarranno sempre molto elevate per il periodo, con massimo intorno a 23-24 gradi in pianura, minime notturne fra 10 e 12 gradi. Sulla bassa pianura sarà possibile localmente la formazione di foschia o di qualche banco di nebbia nelle ore notturne, specie nelle zone più basse e nel pordenonese. Dal pomeriggio del 1 novembre probabilmente aumenterà la nuvolosità in quota, con cielo variabile. E per mercoledì 2 novembre al momento sembra esserci cielo in prevalenza nuvoloso, con la possibilità di qualche debole pioggia al mattino o delle piovigini e un lieve calo delle temperature massime. Giovedì dovrebbe esserci un miglioramento, con cielo da poco nuvoloso a variabile. Le temperature massime saranno ancora intorno ai 20 gradi circa. Mentre per venerdì 4 l'avvicinamento di una depressione atlantica e l'ingresso di un fronte da ovest, un po' più marcato rispetto a quello precedente, provocheranno un peggioramento con piogge anche abbondanti su tutta la regione e probabilmente anche dei temporali, ma sabato il tempo sembra già ristabilirsi. L'invito è comunque di seguire l'aggiornamento delle previsioni, data anche la notevole variabilità prevista. Le temperature in ogni caso sono destinate a calare e a rientrare nella norma del periodo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Ai muars, par ogni von, pan sulla tavola, lu sul porton. Si riferisce a una vecchia usanza delle case contadine che la notte dei morti si faceva trovare per ogni avo, per ogni morto, un pezzo di pane sulla tavola e luce al portone, perché era credenza che gli spiriti dei morti tornassero nelle loro case, ed era quindi buona cosa fargli trovare un pezzo di pane sulla tavola e la luce sul portone in modo che trovassero la strada. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?